Volo pindarico numero 8. Paralisi. Blackout sensoriale scandito da metalliche ritmiche industrial e da un basso virulento che pompa come il sangue nelle vene. Siete inchiodati sul lettino dell'analista e non riuscite a muovere un muscolo. A voi Susan Vega, Blood Makes Noise. Armatevi voi tutti di chitarre e di libri. Sfoggiate sorrisi, tatuaggi e mani che si stringono. Recitate fiabe, Gramsci e le vostre promesse. Perché si va all'assalto del sistema. Si va ad annientare la burocrazia. Fuck you, I won't do what they tell me. A voi, Rage Against the Machine. Killing in the Name of, dedicata a Maddalena. Now you do what they told you. what they taught you. And now you do what they taught you. And now you do what they taught you. And now you do what they taught you. And now you do what they taught you. And now you do what they taught you. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Killing in the name of. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. Ciao Dario, ti immagino nel tuo peregrinare per plumbe i paesaggi industriali, a capochino, sferzato da vento e pioggia. Che cosa cerchi? Io so che cerchi la purezza perduta dell'infanzia, cerchi granelli di umanità. Pomezia è una giungla meccanica, la Gomorra del transumanesimo, e tu un martire cyberpunk fra i nuovi barbari. Queste sono per te. The Present Moment con Pre-Season, L.A.S. is Crime con I'll Merry-Go-Round, Einstürzend Neubauten con Open Fire e Subito Frio con Someone Else. Ciao Dario, 29 aprile 1982. We should. Thank you.

No, Giulio Andreotti non è morto. Si è trasformato in pura energia ed è trasmigrato nell'etere televisivo. E da lì, piovra con mille tentacoli, continua ad esercitare il potere. È diventato inafferrabile come Laura Spinker del film Sotto Shock di Wes Craven. Non ve lo ricordate? Bene, ci penso io a rinfrescarvi la memoria. A voi Megadeth, no more Mr. Nice Guy. No more Mr. Nice Guy. Me, a nice guy. Yeah, right. Well, I used to be such a sweet, sweet thing to me. Digitale, dove tutto sembra evaporare in bit ed algoritmi, la pazienza è una dote sempre più rara. Così come è sempre più raro trovare qualcuno che scelga di impegnarsi in una relazione, con tutto il carico di rischi e di dubbi che comporta, con tutte le cure e tutte le premure che essa richiede. Abbiamo paura di rimanere invischiati in uno stato di irreversibilità e così sentirci soffocare. Oramai i nodi non si stringono più, si lasciano il più possibile allentati. You're no good for me, I don't need nobody. Don't need no one, that's no good for me. Ecco a voi la vertigine del vuoto morale. Ecco a voi i prodigi. Questo è No Good per Andrea. We'll be right back. se l'eroe romantico delle notti bianche di Dostoevskij fosse vissuto nella Milano del 1985? Sì, proprio lui, il sognatore solitario che non comprende, che insegue chimere destinate a crollare miseramente, che vive solo per la sua fantasia, che, fantasma invisibile, attraverso l'arcobaleno dell'inferno urbano alla ricerca della sua Nastenka. Dio mio, un attimo di vera beatitudine è forse poco per riempire tutta la vita di un uomo. Ecco a voi, Franco Battiato, Temporary Road. I'm looking for someone, a miracle to send my life in the curve there. I'm a lonely boy, stepping out, so solitary man. Dabu dabu ba, dabu dabu di bu di bu di tu. I don't understand life can be short or long. Tomorrow's another day. I'm living underground like a teddy boy. I'll cross the rainbow. Migliaia di prigionieri immobili costretti sulle macchine ai semafori. Quando non c'è traffico per le vie del centro, solitario me ne vo per la città. Yabu dibu dibu dibu dibu. Confessioni di un uomo anziano prossimo alla morte. La misantropia, gli errori, il rapporto conflittuale con un padre amato ed odiato, al quale finisce per somigliare sempre di più. Ma poi la conquista della saggezza, la riappacificazione con la vita, la gratitudine e l'inaspettata serenità. Ecco a voi una bellissima lettera di addio. Hills, Things the Grandchildren Should Know. I go to bed real early. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning. No matter how disappointed I was with the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. Makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. some stupid things. But my heart's in the right place, and this I know. I got a dog, I take him for a walk, and all the people like to say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father, though I swore I never would. Now I can say that I have love for him. I never really understood what it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now, even though he's dead. It's not all good and it's not all bad, and don't believe everything you read. I'm the only one who knows what it's like, so I thought I'd better tell you before I leave. Man, I tried to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion, and the difference between the two. And I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do. Out, out. Chi si apre al mondo si chiude al cielo, e chi si chiude al mondo si apre al cielo. Ora tocca a te scegliere. Queste parole di Søren Kierkegaard mi riportano a Julianna Barwick, equipaggiata con una loop station, pedali di lei e riverbero, e occasionalmente tastiere. Julianna usa la sua voce come uno strumento, intessendo magiche sovrapposizioni di loops. Come tutti coloro che hanno accesso all'assoluto, lei, accecata da bagliori divini, conosce l'ineffabile e ne custodisce i segreti. Adesso vi verranno svelati. White Flag, Envelope e Cloud Bank.

da Blood Makes Noise di Susan Vega a Cloud Bank di Juliana Barwick, volo pindarico numero 8.